Radio Onda Rossa, benvenuti a tutti gli ascoltatori e a tutti le ascoltatrici della radio. Siete sintonizzati e sintonizzate sugli 87.9 in FM. Ci potete ascoltare anche in streaming attraverso il sito della radio, che è www.ondarossa.info. Ascolta la diretta. Un saluto particolare di cuore va a tutti coloro e a tutte coloro che sono in questo momento private della loro libertà personale. Federico e David oggi sono tutti ricoperti di glitter. Hanno delle piume e ci mangiamo un bacio prima di cominciare. Cioè, sì, perché oggi abbiamo un ospite speciale, abbiamo Valentina che ci porta sempre dei dolcetti per allietare le nostre puntate del giovedì. Dolce è l'alba che illumina gli amanti. Ecco, appunto. E oggi il film, appunto, dicevo che Federico e David, anche Valentina, ora che la noto è tutta ricoperta di glitter, è proprio un film sulla musica glam degli anni 70, che insomma è stato un fenomeno in Inghilterra, e un fenomeno anche di costume. Poi ne parleremo. Il film di oggi si intitola Velvet Goldmine, è un film di Todd Haynes del 1998, ne parliamo più tardi. Intanto ci ascoltiamo la colonna sonora Glam. una bella colonna sonora questa di oggi, il Velvet Goldmine, è tutta glam rock. Il regista voleva metterci tutta musica di David Bowie, il re del glam rock, ma non gli ha dato, gli ha dato picche, gli ha detto proprio che non poteva usare neanche un brano, e quindi hanno preso, che cosa ha fatto? Si è ripiegato su Roxy Music, T-Rex, un brano di Lou Reed, Steve Harley, e ha usato vari musicisti per ha creato anche un gruppo, il regista. Due gruppi, anzi, i Venus in Force e i Rat qualcosa, proprio per eseguire questi brani. E ci sono dei grandi musicisti che hanno anche cantato, ad esempio Tom York, il cantante di Radiohead, e anche i Placebo. In particolare questo brano che abbiamo ascoltato si chiama 20th Century Boy, eseguito da Placebo, che compaiono anche nel film. Sì, ma ci sono tante cose da dire su questa, su Tom Hanks e su questo. No, stavo parlando del regista, sul regista che ha messo in piedi queste, come dicevi tu, queste due band che sono proprio formate da, insomma, artisti famosissimi, Suede, Sonic Youth, insomma, ha creato proprio una cosa abbastanza anche complessa da raccontare, è una cosa molto nuova per quanto riguarda la storia del cinema e la musica nel cinema. Poi magari la approfondiamo un pochino. E invece questo pezzo, che era un pezzo di Mark Bolan, che è il leader, il frontman dei T-Rex, un vecchio gruppo inglese mi pare, è stato rifatto dai Placebo, è stato eseguito dai Placebo, gruppo che ha una storia bellissima quando si dice destino, no? Brian Molko e Stefan Olsdal, che sono i fondatori poi dei Placebo, frequentavano la stessa piccola scuola in Lussemburgo, ma non si sono mai incontrati finché entrambi, per questioni di famiglia, per necessità familiari, di lavoro dei genitori eccetera, si sono trasferiti in Inghilterra, a Londra, e si incontrano alla stazione della metropolitana insieme a degli amici nella stazione della metropolitana di South Kensington, così in modo casualmente, ecco, non mi veniva la parola, grazie. E questo è stato l'inizio di questa loro amicizia e della nascita di questa band, che poi, insomma, ha avuto un grandissimo successo, ha venduto un sacco di dischi. E un'altra cosa bella della loro storia è che loro sono stati, la band nasce nel 94 e sono stati influenzati dai Cure, Smashing Pumpkins, Sonic Youth, appunto, i Pixies e David Bowie, che dal quale vengono proprio scoperti dopo che la Virgin nel 1996 gli fa pubblicare il primo disco, e lui ne resta talmente affascinato che li porta nel suo tour europeo in Francia e in Italia, e loro diventano il suo gruppo spalla e diventano famosissimi grazie a questo, da essere stati scoperti da Bowie, tanto che suonano anche al fianco degli U2 e con i REM e Mike Stipe, che è anche il produttore di questo film. is looking at you, kid. Hard to forget. Is looking at you, kid. At least not yet. Your memory stays. It lingers ever. Fade away never. Fade away never. Fade away never. Fade away e stiamo ascoltando ancora la colonna sonora di Velvet Goldmine, e questo era proprio un brano, si chiama 2HB di Brian Ferry, però rifatto dai Venus in Force, ovvero questo gruppo creato apposta per il film, con dei vocalizzi che sono un chiaro omaggio, no? Esatto, che vocalizzi di Thom Yorke. In questo brano canta proprio Thom Yorke, il cantante di Radiohead, alla maniera di alla maniera di David Byrne un pochino. Ma Thom Yorke di solito non canta così. Lui nei Radiohead o anche nei altri dischi da solista lui canta di solito in falsetto. Invece in questo brano assolutamente no. La abbandona completamente. E Thom Yorke è un personaggio proprio strano, fico. Suona un sacco di strumenti: chitarra elettrica, chitarra acustica, pianoforte, batteria, basso. Ha ricevuto la sua prima chitarra come regalo per i suoi 7 anni. La sua prima canzone, Mushroom Cloud, descrive un'esplosione nucleare, e l'ha scritta tipo, non so, a 10 anni, e riunisce proprio in queste tenere età la sua prima band nel paesino dove abita, a Abingdon. In questa scuola che incontra proprio i componenti dei futuri Radiohead, e ha partecipato a tantissime colonne sonore con i suoi pezzi The Prestige di Nolan, Twilight e altre pellicole. Volevo dire una cosa su quest'ultimo brano che si chiama 2HB, e HB sono le iniziali di Humphrey Bogart, al quale il brano è dedicato, il brano scritto da Brian Ferry. E stiamo ascoltando la colonna sonora di Velvet Goldmine. Questa era proprio una cover TVI eseguita da Wild Rats, come dicevo prima, il gruppo creato apposta, Rats con 3T. E alla voce è Ewan McGregor, che è uno dei protagonisti. Sì, un attore. Che se la cava proprio. Se la cava. Il maggio è a? Agli Stooges di Iggy Pop, ma è proprio composta da loro, da Iggy Pop e da loro. Sì, ma qua c'è tutta una via e vai di Todd Haynes, che insomma si ispira in questo film a quasi tutte le grandi star di quel periodo. Insomma, sono un po' tutti i personaggi che appaiono nel film sono l'alter ego di, non so, Mark Bolan, piuttosto che Iggy Pop, piuttosto che David Bowie, che è naturalmente, diciamo, l'ispirazione principale del film. E tutto torna per Todd Haynes. Infatti Iggy Pop, se vi ricordate, è stato, insomma, salvato, gli è stata salvata praticamente la vita proprio da David Bowie, che l'ha portato a Berlino con sé e poi gli ha anche fatto pubblicare uno dei suoi più bei dischi, secondo me, che è Idiot. Insomma, c'è sempre una commissione per Todd Haynes, è tutto legato in questo film, è molto bello. I was dancing when I was 12. I was dancing when I was 12. I was dancing when I was out. I was dancing when I was out. I danced myself right out the womb. I danced myself right out the womb. Is it strange to dance so soon? Dance myself right out the room. I was dancing when I was 8. I was dancing when I was 8. Is it strange to dance so late? Is it strange to dance so late? Stiamo proprio in mezzo al glam rock con questo brano, che non è una cover. Si chiama Cosmic Dancer ed è proprio dei T-Rex. Dei T-Rex, il gruppo Tyrannosaurus Rex, poi abbreviato in T-Rex, e gruppo fondato da Mark Bolan. E questa qua è una ballata che parla di reincarnazione e quindi evidenzia il lato mistico di Bolan e delle sue origini hippie. Oh, ci porta questo brano all'ospite di questa settimana, che è Jonah Nazzaro. Come un anno fa, un po' più di un anno fa, una delle prime puntate, e torna nuovamente a trovarci. Ciao Jonah. Una delle più belle, grazie a Jonah. Buon pomeriggio, grazie per l'invito e un saluto a tutte le compagne e i compagni in ascolto di Radio Onda Rossa. Come stai, Jonah? È un onore essere introdotto da Mark Bolan e da Cosmic Dancer. Io mi auguro che voi vi siate genuflessi mentre andava la canzone. Qui è un'atmosfera molto conviviale, abbiamo della birra, del tabacco e Ottavia che ogni tanto digita messaggi. Eh sì, è perché non potete vedere gli zatteroni che indosso mentre esatto. Sto parlando con voi. Ma noi siamo tutti pieni di glitter e di piume, eh? Anche io, parlavo già al plurale. Vedi? Siamo tanti. Siamo in tema. Allora, Jonah, siamo legione. Un film che non avevamo finora considerato, poi ho avuto l'illuminazione, ma Velvet Goldmine, con quel carico che si porta dietro di belle tracce, e per cui eccolo qui, e mi sembra anche giusto che ci sia tu a parlarne. Beh, Velvet Goldmine è un film del 1988 diretto da Todd Haynes, il regista di Carol, tra le altre cose, che prodotto dalla complice di sempre Christine Vachon. All'epoca Todd Haynes era considerato il capofila del cosiddetto New Queer Cinema, quel movimento che ha dato i natali anche a Greg Araki. E tra l'altro è il film che tra l'altro lo ha lanciato a livello internazionale. C'era già stato Poison e Safe, sì. Safe era stato presentato alla Ken Zende, il realizzatore di Cannes. Ti sento un po' lontano, Jonah. Ecco. Come mi sentite adesso? Adesso sei tornato tra noi. Non ero mai andato via. E niente, sì, il film senz'altro della consacrazione. All'epoca il film fu presentato anche al Torino Film Giovani, all'epoca si chiamava ancora così, e proprio in quell'occasione ebbi anche modo di intervistare Todd Haynes per Rumore, il mensile di musica Rumore, e fu una chiacchierata molto lunga e diffusa su questioni di musica e soprattutto di identità sessuale e gender. All'epoca, per fortuna, Dinolfi non girava, se non siamo ritrovati tra le scatole anche allora. Senti, io guardo tutti quei manifesti in giro. No, dai, Roma. Non cominciamo su altre cose. Male. Senti, Jonah, dicevamo prima di David Bowie che non accettò, e quindi lui dovette far ricorso anche a due band composte proprio per il film. Esatto, all'epoca Bowie non volette cedere i diritti della canzone di Velvet Goldmine, sulla quale poi c'è tutta una storia da raccontare, e quindi da questo rifiuto però in realtà nacque una cosa molto interessante, cioè i Wild Rats, che erano sostanzialmente una specie di super gruppo, come si chiamava all'epoca, guidato da Ron Ashton, con la complicità di gente del calibro di Mike Watt, dei Minutemen, di Tarson Moore, dei Sonic Youth, Mark Arm, dei Madonna, e altri complici che strada facendo poi si sono aggregati, perché il progetto è sopravvissuto anche qualche anno dopo la distribuzione di Velvet Goldmine, il film. Nella colonna sonora del film loro suonano una versione abbastanza feroce di TVI, un classico degli Stooges e di hip hop, che si ritrova sul secondo album degli Stooges, Funhouse. Oh, poi c'è un contributo sicuramente non secondario, è quello di Sandy Powell, la costumista che ricevette una nomination all'Oscar proprio per questo film, ma ha un percorso abbastanza notorio come costumista. Assolutamente, ma oltre alla Powell bisognerebbe anche citare la direttrice della fotografia, che è Maryse Alberti, che è tra le altre cose la direttrice della fotografia anche di un film come Creed di Sylvester Stallone, come dell'ultimo film di Night Shyamalan, e soprattutto è stata per moltissimo tempo il braccio destro di David Gibney. Senti, Todd Haynes invece dicevamo che questo è il film che lo ha consacrato, e poi ricordo un film che a me mi era piaciuto parecchio, Lontano dal Paradiso, anche se poi probabilmente il suo livello più alto lo ha toccato con Io non sono qui. Io sono abbastanza d'accordo con questa cosa. Io non sono qui è un film estremamente intelligente, oltre che estremamente riuscito, perché è molto difficile parlare di un musicista come Bob Dylan e raccontare Bob Dylan come una sorta di entità che si incarna e si disincarna, che cambia gender, ci diciamo, e così via. La trovo una scelta molto interessante, e nonostante il grande rispetto che provi per tutto il cinema di Todd Haynes, faccio però un po' di fatica se confronto La libertà di Io non sono qui e Velvet Goldmine con gli ultimi lavori di Haynes, per quanto assolutamente inappuntabili, ma comunque un tantino cristallizzati in questa ricerca della maniera e della forma. E bisogna dire che Haynes in questi ultimi anni ha avuto la fortuna di collaborare con un direttore della fotografia creativo e geniale come Ed Lachman, quindi Haynes sa anche circondarsi del talento giusto, necessario per portare per dare corpo alle sue visioni. Jonah, nel panorama musicale glam di questa pellicola ci sono dei brani e degli artisti che volevi che ci tieni a sottolineare? Beh, assolutamente, guarda, ti risento lontano. Scusatemi, prima di tutto ci sta nel disco compare una versione molto elegante di Venus in Furs, classico dei Velvet Underground, ma in realtà è una sorta di riscrittura sui generis dei Ladytron. Poi ci stanno ovviamente i Roxy Music, ci sta Lou Reed, gruppi che una volta avevano un certo peso, come gli Shudder to Think, che purtroppo sono caduti un po' nel dimenticatoio, ingiustamente ai loro, e ovviamente i T-Rex. E sui T-Rex vorrei dire, insomma, che esiste un libro molto molto bello scritto da un altro musicista, che è Paul Roland, che è un grandissimo fan di Mark Bolan, e che ha scritto un libro estremamente documentato sui T-Rex. Per quanto riguarda poi Velvet Goldmine, la canzone, forse non tutti sanno che doveva apparire originariamente sull'album della consacrazione di David Bowie, ossia Ziggy Stardust, ma per una serie di ragioni il brano non è mai stato incluso in quel disco. Non ultimo è il fatto che si trattava per l'epoca di un testo molto esplicito, per quanto esplicito in maniera poetica e allusiva, e la cosa più inaccettabile per l'epoca è che si diceva che il pezzo in realtà raccontasse un incontro tête-à-tête gay di David Bowie. Anni dopo in realtà Bowie ha detto che si trattava di un punto di vista femminile su Ziggy Stardust, però fatto sta che questo pezzo è ricomparso solo nel 1975 come B-side di Space Oddity. Donna, ciao, ti volevo chiedere una cosa. Questo film è stato detto che è un po' la trama è un po' un pretesto per raccontare la passione del regista per la glam, per il glam rock e per questo periodo, insomma, importantissimo che è stato in Inghilterra, che ha visto la nascita di una tendenza, no? Proprio vera e propria. E poi anche questa ispirazione che lui ha avuto all'interno del film, ci sono tutta una serie di personaggi, lo stavo accennando prima, però poi mi sono persa, sicuramente tu ce lo puoi raccontare meglio. Ci sono tutta una serie di personaggi che sono, sembrano immaginari, ma in realtà sono, cioè, sono presi proprio dalla storia della musica, da questo periodo qua. Sì, assolutamente. Il film, se mi posso permettere di citare, prendendo la conversazione che all'epoca ebbi con Todd Haynes, per Haynes il glam rappresenta uno dei momenti in cui le persone omosessuali potevano finalmente esprimersi e riflettersi in modelli di femminilità non codificata dalla divisione rigida in gender. Oltretutto Todd Haynes raccontava che la successiva ondata di cultura gay era molto più maschile, con accentuando la presenza di corpi molto muscolosi, baffi, e tutta una serie di codici di abbigliamento molto molto precisi, laddove il glam permetteva agli uomini di esprimere la natura più femminile e femminea del proprio carattere anche attraverso l'abbigliamento, il trucco, e in qualche modo per Haynes questo, il momento del glam, è una sorta di Eden della possibilità di un fluttuare del gender, dove gli uomini non sono mai completamente uomini, le donne non lo sono mai fino in fondo, in cui c'è questa danza molto ipnotica della seduzione che si riflette in questo specchio a doppia faccia di un gender mai definito. E musicalmente era un po' la stessa cosa, perché Brian Slade, il cui nome tra l'altro è un omaggio alla band inglese degli Slade, e ovviamente Bowie rappresenta soprattutto ciò che Bowie ha incarnato per tutte gli adolescenti di provincia, che non di provincia non solo ovviamente, ma di tutto il mondo, che avevano dei problemi a dare corpo alle esigenze di una identità sessuale che non si trovava a suo agio con le codificazioni della massa, con le quantificazioni borghesi del maschio femmina, insomma. E chiaramente questo è il motore portante del film, ma alle spalle c'è anche il desiderio in qualche modo di omaggiare un film come Quarto Potere, perché Brian Slade è ovviamente il magnate del film di Orson Welles, di cui non si sa bene che fine ha fatto, c'è l'inchiesta giornalistica per andare a capire come mai sia scomparso, per quale motivo e così via. E c'è questa scrittura molto intelligente. Sì, ha tante intuizioni lui nel creare questo film, sia dal punto di vista della regia, che insomma è una bella opera, perché appunto stavamo citando la costumista, che insomma vincitrice di diversi Oscar, il truccatore che è anche un grande, la direttrice della fotografia, ci sono tante influenze. Una persona molto eclettica, Todd Haynes, secondo me è molto sensibile verso tantissimi aspetti, e questo film, che sembra un film leggero, poi alla fine invece ha uno spessore, secondo me, anche. No, ma assolutamente, è un film assolutamente importante, per cui per esempio basterebbe leggere le pagine della biografia di Morrissey, quanto descrive l'impatto impatto culturalmente devastante in termini positivi, ovviamente, di David Bowie sulla cultura britannica dell'epoca. E proprio qualche anno fa è uscito un bel libro di Simon Goddard, ancora non tradotto in italiano, che si chiama Ziggyology, in cui si studia la figura di Ziggy Stardust quasi come se fosse una figura realmente esistita, tanto è tale è l'impatto che ha avuto questo. C'è tantissimo da dire su questo film. Si potrebbero fare 2-3 puntate su tutte le varie commissioni che ci stanno all'interno. Assolutamente, assolutamente. Senti, Giona, in chiusura, come sempre, ci piacerebbe chiederti se hai un contributo rispetto a una colonna sonora legata a un film di cui ti piacerebbe ascoltare le note. A prescindere? Sì, sì, a prescindere. Noi in questo anno e passa. Be My Baby dell'Eronex, prime battute di Mean Streets. Ok, Mean Streets. Cosa che fece dire a John Lennon: io ho salvato la carriera di Martin Scorsese. Benissimo, e su questo ci salutiamo. Sì, perché Phil Spector si incazzò che aveva Scorsese aveva usato senza diritti la canzone e voleva fargli causa. John Lennon gli disse: no, è un genio, lascia perdere, è un genio. E mi sa che ti dobbiamo invitare un'altra volta per Mean Streets, perché mi ci stai a far capire che c'è un sacco di aneddoti, eh. Giona, un abbraccio, è sempre un piacere, speriamo a presto. Grazie a voi per l'invito. Ciao. Buon pomeriggio. Grazie a te, ciao. Naughty, sneaky. You're so perceptive, and I wonder how you knew. But these things don't work too well. A bad sense of direction, and so they stumble. Headless chicken, can those poor teeth take so much kicking? You're always so charming as you peck your way up there. And these pigs don't dress too well. E finisce in caciara questo bellissimo brano di Brian Eno del 74. Stiamo parlando di il brano si chiama Dead Things Don't Talk, del suo primo disco da solista, e con grande piacere vi parlo un pochino di Brian Eno. Il suo nome inglese, nato in Inghilterra negli anni 40, il suo nome è vero, è Brian Peter George St. John Le Baptiste della Salle Eno, e molto più bello è il nome d'arte, Brian Eno. E lui, si può dire di lui che è praticamente stato uno degli inventori della musica ambient, sicuramente un precursore della new wave e del genere new age. Si dice che praticamente ha trasformato il linguaggio del suono, ma lui è anche stato un videoartista, un filosofo della musica, uno scultore, cantante, polistrumentista, produttore, ma anche talent scout. Ha inventato vari tipi di strumenti, una macchina sonora d'acqua, piovana, oppure ha inciso un brano per percussione su lampada metallica. E lui ha scritto anche un libro manifesto, Music for Non-Musicians, dove teorizza la figura del non musicista, ovvero è un incompetente dal punto di vista tecnico ma ricchissimo di genio creativo, un po' come, non penso che sia incompetente, però insomma, e forse per eliminare i dogmi della musica lui ha cercato proprio di creare la musica senza preconcetti. Con lui hanno suonato in molti, lui ha collaborato con i Roxy Music, con Robert Fripp dei King Crimson, Phil Collins, Talking Heads, David Bowie, con i Devo, Laurie Anderson, Peter Gabriel, Ryuki Sakamoto, i Kraftwerk. Questi sono alcuni dei musicisti con cui ha collaborato. Sì, sì. Scusami. No, ho finito. A proposito di questo, volevo dire proprio che il contributo dei musicisti è importantissimo per Brian Eno, è proprio vero, e sarà proprio una caratteristica per lui peculiare in tutti i suoi dischi. In un brano che poi noi non abbiamo messo, che insomma è contenuto proprio in un album molto importante nella sua discografia, che è Warm Jazz del 74, forse è lo stesso album che contiene anche questo pezzo, questo David? Brano, sì, il suo primo disco da solista. E allora non sto dicendo una cosa del tutto strampalata, e c'è una reunion di musicisti diversissimi, e lui li riunisce e dice proprio questo: solo perché volevo vedere cosa succede quando si combinano diverse identità del genere e permettergli di competere l'uno contro l'altro. Era stata organizzata una situazione con la consapevolezza che ci sarebbero potuti essere degli incidenti, alcuni dei quali sono poi avvenuti, sì. E per ridistruire e dirigere tutti gli ospiti, e questa è proprio la genialità che diceva David di Brian Eno, che è insomma proprio una persona eclettica, preparatissima, con una grandissima sensibilità che non riguarda soltanto l'essere un musicista molto bravo, ha utilizzato il linguaggio del corpo e della danza, e così come attraverso la suggestione verbale, questo, secondo Brian Eno, avrebbe influenzato il loro modo di suonare. I'm Questo è un'altra cover dei Venus on Fours, questo Baby's on Fire, e Baby is on Fire, e la cover è di un brano proprio di Brian Eno, e un brano contenuto sempre nel primo disco, e è cantato dall'attore Jonathan Rhys Meyers, e che è un attore, mi diceva Ottavia, che ha fatto pure una parte in Match Point. Sì, beh, insomma, un attore abbastanza conosciuto, è uno dei protagonisti del film di Woody Allen Match Point, e poi insomma ha fatto tanta altra roba che adesso mi sfugge, dovrei andare a cercare, non ero preparata, perché stavo invece pensando sempre a questo Todd Hines, che mi piace un sacco, perché a me piacciono le persone che hanno tanti interessi, che non si fermano a una loro passione, ma quella passione li porta poi a ricercare, a trovare altre cose, a scoprire. Mi piacciono le persone curiose, e lui, Todd Hines, è molto curioso, perché in questo film mette tantissime cose, a parte vabbè la presenza di Placebo e di tante altre star che fanno tanti cammei. C'è per esempio di nuovo la sua passione per la danza, che in questo film è presente, e c'è Lindsay Kemp, che è un famosissimo coreografo, che appare e interpreta un cameo, appunto, e fa il personaggio dello zio di Brian Slade, che è il protagonista, e fu, sempre parlando della di questa incredula interessi che si mischiano dentro l'animo di questo regista magico, secondo me, fu maestro di recitazione di mimo di David Bowie, perché tutto torna in questo film, eh? We can't take it this way, and the friends don't want another. Stiamo sempre ascoltando la colonna sonora di Velvet Goldmine. Questa è un'altra cover del gruppo Teenage Fan Club, si chiama Personality Crisis, eseguita dai Teenage Fan Club, ma originariamente il brano è dei New York Dolls e cantato da Donna Matthew. I Teenage Fan Club sono un gruppo di Scozia fra i fondatori del grunge, infatti erano uno dei gruppi preferiti di Kurt Cobain. Sì, qui io questa canzone la dedico a Peter perché so che è uno dei suoi pezzi preferiti, so che è all'ascolto, come so che sono all'ascolto tanti amici, Ilaria, Giulia, Fabrizio, tantissimi amici ci stanno ascoltando, quindi li saluto, un abbraccio a tutti quanti. Leone sicuramente. Leone non lo so perché quello sta sempre in giro, però può darsi, lo salutiamo, se è all'ascolto facci un trillino. Anche per Gian dirci Giacomo, che ci sei. Gian Giacomo, Gian Giacomo, un abbraccio. Beh, vabbè, siamo ai saluti. Quindi siete tutti quanti così all'ascolto e potete anche mettere mano al portafoglio e fare una sottoscrizione per la radio che ne ha molto bisogno per sopravvivere, per continuare a trasmettere e per farvi compagnia con le sue buone trasmissioni musicali, con gli approfondimenti, con tutti i redazionali e con tutto quello che la radio fa per fare informazione, controinformazione e controcultura in fondo anche. Quindi potete sottoscrivere al conto corrente postale 6180-4001 intestato a Cooperativa Culturale Laboratorio 2001 via De Vosci 56-00185 Roma. Potete sottoscrivere anche attraverso il sito della radio www.ondarossa.info. Sostieni Onda Rossa, c'è un pulsante dove potete pagare con una carta di credito, quindi senza andare alla posta, è forse anche più comodo. E quindi chi può sostenga questa radio, perché è un'azione importante anche civile, secondo me. Si può anche in crowdfunding dal sito di Produzioni dal Basso, si può, c'è una pagina, sì, c'è un nuovo progetto, nuovo della progetto radio per credo un anno ancora, cominciata da un mesetto può, e andrà avanti ancora per 300 e passa giorni, quindi c'è tempo e modo. Siamo ai saluti, si torna giovedì prossimo sempre dalle 15 alle 16. L'indirizzo di posta elettronica è tracce di cinema@ondarossa.info. David, con cosa ci salutiamo? Ci salutiamo con i Roxy Music. Ah, non con Satellite of Love? No, troppo sentita. No. L'abbiamo anche già mandata. E Roxy Music con Virginia Plain. You're so chic, do you wear the lovely? Ladies of the mountain streamline, midnight new casino floors. Dance the cha-cha through to sunrise, opens up exclusive doors for wow. Just like the windows look the same, so me and you, just we two, got to search for something new.